cosa ingiusto, prega con l'animo mesto, ma che il mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola, figlierò che tornerò. Lasciavamo il cantiere, lieti del nostro lavoro, e il campanon din don ci faceva il coro. Vola, colomba bianca, vola, figlierò e i miei sogni piango in poco te, pure il mio vecchio ti pensa, sogna le pene sofferte, piange e nasconde il viso tra le coperte. Vola, colomba bianca, vola.